Radio 24 Reportage. Africa, il gusto del riscatto, di Paolo Piacenza. È il salone dei golosi, delle prelibatezze riscoperte, delle verticali di vini o formaggi, ma è pure il salone della consapevolezza, della sostenibilità dei produttori della terra e del mare. E nel 2012, più che in passato, è stato il salone del gusto degli altri, dei prodotti da tutti i continenti, dei diritti faticosamente coltivati e difesi insieme alla terra. Non è un caso, dunque, che per questa edizione di piena fusione tra Salone del Gusto e Terra Madre, Slow Food abbia scelto l'Africa come protagonista principale. Perché l'Africa è un continente in cui l'80% della popolazione vive di agricoltura, perché è uno straordinario scrigno di biodiversità agricola poco nota, ma anche perché l'Africa è la terra maggiormente colpita dall'accaparramento di terre o land grabbing, e forse proprio l'Africa è la trincea più calda del confronto tra una strategia agricola orientata allo sfruttamento intensivo delle risorse e un modello di agricoltura sostenibile, basato sulle comunità locali. John Kariuki Mwangi viene dal Kenya. Giovane, di famiglia contadina, grazie a una borsa di studio si è laureata all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo fondata da Slow Food e oggi è il coordinatore di Slow Food International nel suo paese. Conferma che la crescita economica degli ultimi anni nel suo paese, come in altri, ha favorito lo spopolamento delle campagne, abbandonate per inseguire il sogno di una vita migliore in città. L'altro problema che abbiamo è che noi ogni tanto ci sono i multinazionali che ogni tanto controllano le cose, che arrivano dai nostri governi, gli danno tantissimi soldi e poi vanno fino ai contadini a promuovere i loro prodotti. Quindi ogni tanto i contadini non riescono a dire di no, perché al fine loro non sanno bene che impatto che hanno quei semi, pesticidi, tutte queste cose qui. La partita africana di Slow Food parte proprio da qui, dice John. Il problema che abbiamo, tipo in Kenya e anche in altri paesi africani, è che stiamo perdendo il nostro prodotto tradizionale con una velocità molto alta. E quindi noi, tipo in Kenya, abbiamo cominciato a lavorare sui presidi nel 2009. Questo è un progetto che cerca di proteggere questi prodotti di alta qualità che stanno scomparendo. Adesso quello che abbiamo fatto con i contadini, visto che loro ogni tanto non hanno fiducia nei loro prodotti tradizionali, è di cercare di farli capire che questi sono prodotti molto importanti per loro, non solo per loro, però anche per la natura, perché questi sono prodotti che vengono prodotti in un modo sostenibile. E quindi mano a mano che abbiamo cominciato a lavorare con loro, anche loro hanno capito l'importanza di questi prodotti tradizionali. E adesso si sentono anche orgogliosi di anche tipo partecipare a Terra Madre, parlare dello yogurt con la cenere, parlare di sale di canna del fiume Zoia, di parlare di tutti i prodotti che stanno producendo. Terra Madre, insomma, è nata per questo. La potente macchina di marketing costruita da Slow Food punta a tenere insieme gusto e coscienza, accendendo più di un faro su ciò che il cibo è, su quello che costa e su ciò a cui deve servire per tutti. L'Africa è quindi divenuta terreno di impegno naturale per Terra Madre, come spiega Serena Milano, segretario generale della Fondazione Slow Food per la biodiversità. Il nostro lavoro in Africa ha una decina d'anni di storia, quindi è più recente rispetto alla storia di Slow Food, che è ventennale. È nato con Terra Madre sostanzialmente, quando abbiamo incominciato a coinvolgere una rete più ampia di comunità in tutto il mondo, abbiamo iniziato anche a lavorare in modo importante in diversi paesi africani. Poco per volta, dal semplice coinvolgimento delle comunità all'evento, sono partite moltissime attività come i presidi, che sono i nostri progetti a difesa dei prodotti tradizionali che rischiano di scomparire, e poi il progetto più importante che è stata la realizzazione di 1000 orti comunitari, scolastici, familiari. Proprio nel cuore dell'Ovalo Olimpico, per far conoscere il progetto dei 1000 orti sostenibili realizzati da Slow Food in 25 paesi dell'Africa, è stato installato un vero orto africano, 400 metri quadri di piante e alberi con illustrazione dal vivo delle tecniche tradizionali. In questo orto che abbiamo ricostruito si vede la pacciamatura intorno alle piante, si vede un semenzaio, perché negli orti del nostro progetto i produttori non comprano le bustine di semi ma riproducono i propri semi, si vedono dei sistemi tradizionali per irrigare a goccia, ci sono delle anfore forate che si usano in Marocco e che sono dei sistemi antichissimi e che evitano di ricorrere a tubi di plastica che poi si rovinano e, per il sole e che inquinano. Si vedono le consociazioni, si vedono le recinzioni vive, perché noi cerchiamo di fare orti senza acquistare nulla. Si vede per esempio l'uso delle piante come insetticida naturale e tutte queste sono le caratteristiche che noi volevamo illustrare degli orti africani, ovvero il fatto che sono orti molto biodiversi. Qua ci sono 80 varietà diverse di legumi, ortaggi, erbe aromatiche, ci sono anche alberi da frutta e ci sono sempre anche erbe medicinali. E poi c'è tutto il racconto delle tecniche di coltivazione e c'è questa idea di avere un orto assolutamente sostenibile perché non costa. Il lavoro di Slow Food è stato lungo. Anni di confronto con le comunità locali che hanno permesso di scoprire e valorizzare la ricchezza delle varietà e dei saperi tradizionali. E così sono nati, oltre agli orti, oltre alle condotte, alle comunità del cibo, i presidi, circa 30, sorti anche là dove sembrava esserci solo morte e miseria. È il caso della Sierra Leone, paese segnato da una guerra civile ultradecennale dove è nato, grazie anche a FAO e Ministero degli Esteri italiano, il presidio della noce di cola di Kenema. Il nome rimanda alla bevanda globale per eccellenza che però di cola naturale non ne contiene. Dalla cola di Kenema, Teomusso di Baladin, il primo artigiano della birra in Italia, ha deciso di creare la cola Baladin, al 100% naturale e solidale. Patrick Mansarai è il coordinatore nazionale dei produttori di noce di cola della Sierra Leone. In my country, nearly all the east and southern part of the country, there are farmers who produce cola nuts. Patrick racconta che nel suo paese, in tutto l'est e il sud, ci sono produttori di noce di cola che però rende molto meno di caffè o cacao. Quando nel 2010 è venuto per la prima volta a Terra Madre, ha portato solo pochi semi. Matteo Musso di Baladin li ha visti e ha creato una bevanda. Così Patrick ha dato vita a un'associazione di produttori che oggi, mi spiega, sono molto soddisfatti perché la noce di cola è nota a tutti in Sierra Leone ed è praticamente obbligatoria nelle cerimonie, specie in quelle nuziali. Ma ora c'è una strada nuova che ha permesso di valorizzare la produzione e di mantenere le piantagioni. Un'altra storia incredibile è quella della pasta cat di Gao e Timbuktu nel Mali. Sì, proprio una pasta, una specie di minuscola trofia tipica di questa terra al limitare del Sahara, originaria di Timbuktu, città mitica per gli occidentali, un tempo ricca capitale di un potente sultanato, oggi ostaggio della nuova guerra civile scoppiata inizio anno nel nord del paese per iniziativa di gruppi terroristici legati ad Al-Qaeda. Saudatou Bakri è la rappresentante della comunità di donne che compongono questo presidio Slow Food. Mi spiega che la pasta cat è un piatto tradizionale del nord del Mali, tramandato nei secoli da gruppi di donne. Nasce da un grano locale, viene fatta a mano e lasciata essiccare, tostata, poi cotta in una sorta di ragù speziato. Oggi però le donne produttrici vivono una situazione difficile, sono state costrette a separarsi a causa della guerra, alcune sono rimaste a Timbuktu, altre sono profughe in Mauritania o in Burkina Faso. La sfida è continuare il lavoro, la produzione, e Saudatou sottolinea che è molto importante per questo il ruolo di partner come Slow Food o come la FAO, al fine di far conoscere questa pasta con azioni di marketing. Un presidio Slow Food tutto al femminile sostenuto da Cooperazione Italiana e FAO e anche quello del couscous salato del Senegal. Ne parlo con Augustin Diou, responsabile del presidio Slow Food dell'isola di Fadiout. Il couscous salato di Fadiout, mi dice Augustin, è un couscous di miglio ottenuto grazie a un processo particolare. Il miglio viene pestato, setacciato e lavato in acqua di mare, poi risciacquato in acqua potabile, rimacinato in farina e granulizzato, quindi mescolato con la farina di foglie di baobab, come addensante ma anche perché favorisce la digestione. Ora, grazie a Slow Food, grazie anche alla formazione fatta alle donne della comunità locale e al presidio che difende il prodotto a livello globale, il couscous di Fadiout viene valorizzato. Grazie al presidio, il vero couscous salato totalmente bio e totalmente locale di Fadiout si vende pure in Italia. Resta comunque l'impressione di una lotta tra Davide e Golia. C'è l'offensiva dei grandi gruppi globali alimentari, il consumo di risorse, lo spopolamento, e c'è l'accaparramento di terre in preoccupante crescita. Stefano Liberti, giornalista e autore di Land Grabbing, edito da Minimum Fax, conferma, anche se indica che ci sono segni di reazione positiva. Il fenomeno si sta rafforzando, ci sono, secondo stime diverse, tra i 50 e 70 milioni di ettari che sono stati ceduti da governi dell'Africa subsahariana a gruppi vari di stranieri di vario genere. questi accordi non si conoscono molto bene, per cui questa stima è imprecisa, perché spesso sono conclusi in modo opaco, non sono noti alle opinioni pubbliche. Quando ho iniziato le ricerche per il mio libro, il fenomeno era molto poco noto, era molto poco combattuto anche presso le opinioni pubbliche del sud del mondo e dei paesi interessati. Era considerato come qualcosa che riguardava le popolazioni rurali, che non riguardava la società civile nel suo insieme. Devo dire che negli ultimi 1-2 anni è cresciuta una certa sensibilità anche presso i ceti medi urbani, si è creata una forma di opposizione più forte in alcuni paesi, meno forte in un'altra, e addirittura alcuni accordi che erano stati conclusi dai governi sono stati cancellati proprio in seguito a delle manifestazioni di piazza. Anche per Serena Milano, nonostante i segnali preoccupanti, ci sono concreti motivi per sperare, anzi per affermare un futuro di riscatto dell'Africa. C'è una macchina dei poteri, di questi poteri forti, che indiscutibilmente forte. Questo sta creando un problema enorme di accesso alla terra e all'acqua. E spesso anche i giornali fotografano questa crescita impetuosa del PIL dei paesi africani. In realtà è una crescita che è legata a un aumento impressionante della sperequazione. Detto questo, noi siamo ottimisti perché lavorando direttamente con moltissimi giovani, con moltissime comunità di donne, con moltissime piccole realtà, stiamo scoprendo che l'Africa è ricca. È una ricchezza che neanche gli africani conoscono, o meglio, la conoscono ma non ne percepiscono il valore. Rispetto a quello che è stato fatto anche in questi ultimi anni di cooperazione, c'è comunque un atteggiamento che secondo me deve cambiare, non deve essere quello di portare, ma quello di far emergere. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.